America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The US Commerce Department says GDP increased at a 3.5% annual rate during the three months to September. Avete sentito un newscast? Il prodotto interno lordo americano è salito nell'ultima revisione del terzo trimestre del 3,5%. L'economia tira. Barack Obama aveva ragione quando continuava a ripetere che la sua ricetta aveva funzionato, e adesso la staffetta passerà a Donald Trump, che promette di fare molto meglio, promette addirittura crescite del 5-6%, come attraverso riduzioni fiscali. Vedremo, ce ne occuperemo nelle prossime settimane. Ci sono un paio di altre notiziole: fronte terrorismo, preoccupazione, perché ci si rende conto che molto spesso i servizi controllano, hanno le fedine penali dei personaggi che possono presentare dei rischi, però poi non riescono a giocare d'anticipo, proprio come è successo in Germania. Dunque si lavora per cercare di ottimizzare le informazioni disponibili. Infine, Donald Trump ha risposto a Vladimir Putin, ha detto: anche noi dovremmo partire con una corsa al riarmo nucleare. Beh, devo dire, dichiarazioni non esattamente rassicuranti e all'opposto di quelle che faceva Barack Obama, che invece voleva spingere per il disarmo nucleare. Ma oggi non voglio parlarvi di politica, di economia, vi ho anticipato alcune notizie. Oggi voglio parlarvi del Natale a New York, perché ci stiamo avvicinando al Natale. Dunque cerchiamo di cambiare marcia, di dimenticare i litigi, di dimenticare le polemiche e di pensare, beh, a quello che ci unisce e ci lega tutti. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Ecco, io ho fatto ascoltare questo coro che ho registrato per strada nel Village. È abitudine a New York che si vadano a formare dei gruppi di persone che vanno in giro e cominciano a cantare. E l'altra sera, appunto, passeggiando per il Village, a un certo punto c'era questo gruppo di una trentina di donne, erano solo donne, che intonavano questi canti a degli angoli della strada, davanti a un ristorante. E dunque questo vi dimostra come in questa città, che è così presa da energia vorticosa che gira sempre a mille, in realtà il Natale è vissuto in modo totale. A parte questo coro che ho fatto sentire per strada, se voi doveste essere a New York e andare al Rockefeller Center, insomma attorno all'albero natalizio, attorno alle grandi vetrine illuminate dove ci sono storie natalizie, attorno agli angioletti che si allineano lungo la promenade che porta poi all'albero di Natale, dove sotto tra l'altro c'è la pista di pattinaggio, ecco, non potremo avere città più magica per il Natale. Ma questo è il Natale per strada. C'è poi il Natale anche a casa, perché che succede? Che i newyorkesi, che vivono sempre questa vita un po' sfrenata, presi dal lavoro, difficilissimo sempre incontrarsi, vedersi, amici anche intimi, magari non si vedono per 6 mesi, per 7 mesi, per un anno. Ecco, poi c'è il Natale e in quel momento ci sono una gran quantità di parties e ci si ritrova in casa, nelle case. Ecco, questo è uno dei party natalizi più belli a cui mi capita di andare ogni anno, perché poi questi party si ripetono, sono un po' degli appuntamenti fissi. C'è sempre un coro professionista con costumi che canta le canzoni tradizionali e poi gli invitati si uniscono prima di sedersi a tavola per cena, vengono distribuiti i testi delle canzoni e tutti si uniscono in coro. Dunque ho registrato proprio mentre la gente cantava, sentite le voci, sentite gli applausi, sentite l'atmosfera natalizia. Ci sono i party uptown, ci sono i party al Village, sono i party a Tribeca. Ecco, a Tribeca, Tribeca è Triangle Below Canal, quindi è un quartiere sotto il Village, è un po' il regno del grande attore Robert De Niro, dove ha il suo studio, dove ha il suo albergo, il suo ristorante. Ecco, a Tribeca era un party repubblicano e proprio a questo party ho incontrato una persona che non vedevo da moltissimo tempo, una collega, una giornalista radiofonica, ma una grandissima celebrità, Laura Ingraham. A voi non dirà nulla, ma Laura Ingraham ha parlato alla convention di Trump. Sentite l'accoglienza che ha avuto. Of Life's At, Laura Ingraham. Ecco, questo è il personaggio Laura Ingraham e sentite come ha mobilitato la folla alla convention. Let's send the consultants, the pollsters and the lobbyists packing. And let's elect Donald Trump, President of the United States. Ecco, vi dicevo che qui in America si finisce per perdere molto i contatti. Laura Ingraham anni fa mi diceva che avrebbe voluto adottare dei bambini, non è sposata, non ha dei figli, ebbene li ha adottati ed erano tutti e tre lì con lei, un ragazzino dalla Russia, una ragazzina dal Centro America e un altro ragazzino dal Sud America. Ecco, il vederla e fare questo confronto tra lei, single mother con tre ragazzini adottati, e la tigre che avevo visto alla convention, beh, devo dire, è stato un bellissimo dono di Natale. Finally, it's funny you should say that, because this is a song I interviewed your dogs, and so this is their Christmas song from the staff, but from the point of view of the dogs. Ecco, questo è ancora un altro party natalizio, non di questa settimana passata ma della settimana prima, perché qui la stagione natalizia comincia con l'accensione dell'albero di Natale, quindi praticamente si entra in spirito natalizio per quasi un mese. Avete sentito che chi parla dice: beh, questa è una canzone che mi è stata commissionata dallo staff, ma che io ho scritto dalla prospettiva dei cani. Vi racconto la storia. Allora, questa è una delle case più belle a New York, i padroni di casa fanno sempre un party molto bello, e lo staff, cioè le persone che lavorano in questa casa, che sono alquanto numerose, 7-8 persone, pensate, credo solo a New York, hanno deciso di commissionare a questo chansonnier una canzone dedicata ai padroni di casa. Devo dire, è stato un momento molto bello, molto toccante, eravamo tutti insieme e a un certo punto ecco il risultato. Whether you're merely human or the dogs at Christmas time, bene, ieri sera ho chiuso con un altro party molto divertente e anche significativo dal mio punto di vista, perché chi ospita questo party vive nella casa che fu di Pulitzer. Pulitzer, il grande giornalista, editore americano che poi istituì i Pulitzer Prize. Dunque un rapporto forte col giornalismo, e fra gli ospiti c'erano molti esperti politici, giornalisti, insomma un ambiente di grandissimo interesse. Infine chiuderò il 24 sera con un party che fa sempre tutti gli anni uno scrittore italo-americano che si chiama Gay Talese, che di nuovo forse molti di voi non conosceranno, ma che direi è un simbolo storico del giornalismo americano, a oltre 80 anni, e riesce a mettere insieme la notte di Natale, una delle feste più entusiasmanti di tutta la stagione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più tempo difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho parlato di party natalizi. Questo è lo spirito natalizio che lega una città tentacolare. E dunque, per chiudere, augurandovi un buon Natale naturalmente, non posso che proporvi Santa Claus is Coming to Town di Bing Crosby. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Little tin horns, little toy drums, broody toot toots and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town. And curly head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas dream. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi augura uno splendido Natale e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!